Terzo anello ad alta voce. Il processo di Franz Kafka. Alla fine K decise di revocare il mandato all'avvocato. Certo, non era possibile estirpare il dubbio se era giusto fare così, ma il convincimento della sua necessità finì col prevalere. La decisione, il giorno in cui K volle andare dall'avvocato, gli aveva sottratto molta energia lavorativa. Lavorava con lentezza insolita. Dovette rimanere in ufficio molto a lungo, e già erano passate le 10 quando si trovò finalmente davanti alla porta dell'avvocato. Prima di suonare, rifletté se non fosse meglio sollevare dal suo incarico l'avvocato per telefono o per lettera. Il colloquio personale sarebbe stato certo molto penoso. Ciò nonostante, K non volle alla fine rinunciarvi. In qualsiasi altro modo l'esonero sarebbe stato accettato tacitamente o con qualche parola di circostanza, e K non avrebbe mai saputo, a meno che Leni non avesse potuto scoprire qualche cosa, come l'avvocato aveva preso l'esonero e quali conseguenze per K potesse avere questo esonero secondo il parere non trascurabile dell'avvocato. Se invece l'avvocato gli fosse stato seduto di fronte e fosse stato colto di sorpresa dall'esonero, K, anche se l'avvocato non si fosse lasciato strappare granché, avrebbe potuto facilmente desumere dal suo viso e dal suo comportamento tutto quello che voleva. Non era neppure escluso che rimanesse convinto dell'opportunità di lasciare all'avvocato la difesa e che perciò ritirasse l'esonero. Il primo squillo di campanello alla porta dell'avvocato, al solito, non ebbe seguito. Leni potrebbe essere più svelta, pensò K. Ma era già molto se altri non si mischiava, come accadeva di solito, se l'uomo in vestaglia o qualcun altro non cominciava a infastidire. Mentre K premeva il bottone per la seconda volta, guardò l'altra porta alle sue spalle, ma questa volta rimase anch'essa chiusa. Infine, allo spioncino della porta dell'avvocato apparvero due occhi, ma non erano gli occhi di Leni. Qualcuno aprì la porta, tenendosi però ancora appoggiato contro di essa. Gridò nell'interno: «È lui!» E solo a questo punto finì di aprire. K aveva premuto contro la porta perché già sentiva come alle sue spalle, nella porta dell'altro appartamento, girassero in fretta la chiave nella serratura. Perciò, quando la porta si aprì finalmente davanti a lui, si precipitò addirittura nell'anticamera e fece in tempo a vedere Leni, cui era indirizzato l'avvertimento di chi aveva aperto la porta, fuggire in camicia lungo il corridoio che si apriva tra le camere. La seguì un momento con lo sguardo, poi si voltò a guardare l'uomo che aveva aperto. Era piccolo e magro, con una gran barba. Teneva una candela in mano. «È impiegato qui?» chiese K. «No», rispose l'uomo. «Non sono di casa, l'avvocato è solo il mio rappresentante. Sono qui per una questione legale». «Senza giacca?» chiese K, indicando con un gesto l'abito succinto dell'uomo. «Ah, mi perdoni», disse l'uomo volgendo verso di sé la luce della candela, quasi si accorgesse solo ora delle sue condizioni. «Leni è la sua amante?» chiese K secco. Aveva divaricato un po' le gambe, intrecciando dietro la schiena le mani che reggevano il cappello. Il solo possesso di un pesante cappotto lo faceva sentire molto superiore all'omino sottile. «Oddio!» disse quello alzando spaventato una mano per difendersi davanti al viso. «No, no, no, no, cosa pensa mai?» «Sembra sincero», disse K sorridendo. «Tuttavia, venga!» Gli fece un cenno con il cappello e lo fece camminare davanti a sé. «Come si chiama?» chiese K mentre procedevano. «Block, commerciante Block». Bloch è il suo vero nome? Chiese K. Certo, fu la risposta. Perché ne dubita? Pensavo che potesse avere delle ragioni per nascondere il suo nome, disse K. Si sentiva libero, come di solito accade solo all'estero, quando si parla con gente umile, tacendo tutto quello che ci riguarda, discorrendo con indifferenza degli interessi degli altri, innalzandoli così al di sopra di noi, liberi però di lasciarli cadere quando vogliamo. K si fermò alla porta dello studio dell'avvocato, l'aprì e gridò al commerciante che aveva continuato a camminare obbediente. «Non tanto in fretta! Faccia luce qui!» K pensava che Leni potesse essersi nascosta lì dentro. Fece frugare in tutti gli angoli dal commerciante, ma la stanza era vuota. Dinanzi al ritratto del giudice, K trattenne il commerciante, tirandolo da dietro per le bretelle. «Lo conosce?» domandò alzando l'indice. Il commerciante sollevò la candela, alzò lo sguardo strizzando gli occhi e disse: «È un giudice». «Un giudice di alto grado?» domandò K e si mise di fianco al commerciante per osservare l'effetto che il ritratto faceva su di lui. Il commerciante guardava in alto con ammirazione. «È un giudice di alto grado», disse. «Non ha molto occhio», disse K. «Tra i giudici istruttori di rango inferiore è quello che sta più in basso». «Ora mi ricordo», disse il commerciante abbassando la candela. «L'ho già sentito anch'io». «Naturalmente», esclamò K. «Me ne dimenticavo, naturalmente deve averne già sentito parlare». «Ma perché? Perché?» chiese il commerciante, mentre spinto dalle mani di K si muoveva verso la porta. Fuori sul corridoio K disse: «Lei lo sa, vero, dove Leni si è nascosta?» «Nascosta?» disse il commerciante. «No, ma dovrebbe essere in cucina a preparare la minestra per l'avvocato». «Perché non l'ha detto subito?» chiese K. «Volevo portarla proprio là, ma mi ha richiamato indietro», rispose il commerciante come confuso da quegli ordini in contrasto. «Lei crede di essere molto furbo», disse K. «Via, mi porti!» K non era ancora mai stato nella cucina, grande in modo sorprendente e arredata con ricchezza. Solo i fornelli erano 3 volte più grandi dei fornelli normali. Altri particolari non si vedevano perché in quel momento la cucina era illuminata soltanto da una piccola lampada appesa vicino all'ingresso. In grembiule bianco, come sempre, accanto ai fornelli, Leni stava versando uova in una casseruola posata sopra un fornello a spirito. «Buonasera, Joseph», disse dandogli un'occhiata di lato. «Buonasera», disse K accennando con una mano a una seggiola in disparte perché il commerciante vi si sedesse, cosa che quello fece. K si fece invece accosto a Leni, si piegò sopra le sue spalle e chiese: «Chi è quell'uomo?» Leni cinse K con una mano, mentre con l'altra mescolava la minestra. Lo tirò in avanti verso di sé e disse: «È un disgraziato, un povero commerciante, un certo Bloch. Basta guardarlo». Entrambi si voltarono a guardarlo. Il commerciante sedeva sulla seggiola che K gli aveva indicato. Con un soffio aveva spento la candela che ora non serviva più e stringeva fra le dita il lucignolo perché non fumasse. «Eri in camicia?» disse K e con la mano le girò di nuovo la testa verso i fornelli. Lei tacque. «È il tuo amante?» chiese K. Lei fece per prendere la casseruola, ma K le afferrò le mani e disse: «Rispondi!» Lei disse: «Vieni nello studio, ti spiegherò tutto». «No!» disse K. «Voglio che lo spieghi qui». Lei gli si appese al collo e cercò di baciarlo. K però la respinse e disse: «Adesso non voglio che mi baci». «Joseph», disse Leni guardandolo negli occhi, supplichevole e tuttavia ferma, «non sarai geloso del signor Bloch?» «Rudy», disse volgendosi al commerciante, «aiutami. Vedi che sono sospettata. Lascia andare la candela». Si sarebbe potuto pensare che non era stato attento, e invece era perfettamente informato. «Non saprei perché dovrebbe essere geloso», disse senza grande prontezza. «Veramente non lo so neppure io», disse K, fissando sorridendo il commerciante. Thank you. Leni rise forte, approfittò della disattenzione di K per prenderlo sotto braccio e sussurrò: lascialo andare adesso, vedi pure che uomo è. Mi sono occupata un po' di lui perché è un grosso cliente dell'avvocato solo per questa ragione. E tu? Vuoi parlare oggi stesso con l'avvocato? Oggi sta molto male, ma se vuoi ti annuncio lo stesso. Questa notte però rimarrai con me di sicuro. Del resto è tanto che non venivi da noi. Anche l'avvocato ha chiesto di te. Non trascurare il processo. A mia volta devo dirti molte cose che ho saputo. Ma adesso comincia col toglierti il cappotto. Lo aiutò a toglierselo. Gli prese il cappello, corse in anticamera per appendere le due cose. Corse di nuovo indietro e guardò la minestra. Devo annunciare prima te o portargli prima la minestra? Annuncia prima me, disse K. Era contrariato. Il suo piano iniziale era di discutere bene con Leni la sua faccenda, specie l'opportunità dell'esonero dell'avvocato, ma la presenza del commerciante gliene aveva tolto la voglia. Adesso però la sua causa gli parve troppo importante perché quel piccolo commerciante potesse interferire in modo forse decisivo. Così richiamò Leni, che era già nel corridoio. Portagli prima la minestra, disse. Deve rinforzarsi per il colloquio con me. Ne avrà bisogno. Anche lei è un cliente dell'avvocato, disse piano il commerciante dal suo angolo, come per una constatazione. Ma non fu accolto bene. Che gliene importa? Disse K. E Leni disse: sta zitto! Allora prima gli porto la minestra, disse Leni a K. E versò la minestra in una scodella. L'unica paura è che si addormenti subito. Dopo mangiato si addormenta subito. Quello che gli dirò io lo terrà sveglio, disse K, che voleva continuamente fare intravedere il proposito di discutere con l'avvocato una cosa importante. Voleva che Leni gli chiedesse di che si trattava, per poi chiederle consiglio. Ma lei eseguiva soltanto punto per punto gli ordini espliciti. Nel passargli davanti con la tazza, lo urtò leggermente, con intenzione, e sussurrò: appena mangiato la minestra ti annuncio subito, per riaverti prima possibile. Va, disse K. Va. Sì, più gentile, disse lei, e si voltò ancora una volta sulla porta con la tazza. K la seguì con lo sguardo. La decisione di esonerare l'avvocato adesso era definitiva. Era meglio quindi che prima non potesse parlare più con Leni. Lei non aveva una visione sufficiente dell'intera vicenda. Lo avrebbe certo sconsigliato. Magari lo avrebbe trattenuto davvero per questa volta dall'esonerarlo. Lui sarebbe rimasto nel dubbio e nell'inquietudine. E alla fine, dopo un certo tempo, avrebbe comunque attuato la sua decisione, perché tale decisione era troppo impellente. Tanto prima, tuttavia, l'avesse attuata, tanto maggiore il danno che avrebbe evitato. Forse il commerciante avrebbe saputo dirgli qualcosa in merito. K si voltò appena il commerciante si accorse di questo. Fece subito per alzarsi. Rimanga seduto, disse K, e portò una seggiola vicino a lui. Lei è un vecchio cliente dell'avvocato, vero? Chiese K. Sì, disse il commerciante. Un vecchissimo cliente. Da quanti anni la assiste? Chiese K. Non so come la intende, disse il commerciante. In causa di affari, io ho una ditta in Granaglie. L'avvocato mi assiste da quando assunsi la ditta, cioè da circa 20 anni, mentre nel mio processo personale, al quale lei forse allude, mi assiste anche qui fin da principio, da più di 5 anni. Sì, da molto più di 5 anni. Soggiunse e trasse di tasca un vecchio portafoglio. Thank you. È difficile tenere tutto in testa. Il mio processo dura probabilmente da molto più. Cominciò subito dopo la morte di mia moglie, più di 5 anni e mezzo fa. K gli si fece più vicino. L'avvocato accetta allora anche cause comuni? Chiese. Quel legame fra tribunale e giurisprudenza gli parve estremamente rassicurante. Certo, disse il commerciante, e sussurrò a K. Si dice persino che in questo genere di cause valga più che nelle altre. Ma poi parve pentirsi di quanto aveva detto. Posò una mano sulla spalla di K e disse: per favore non mi tradisca. K gli dette un colpetto rassicurante sulla coscia e disse: no, non sono un traditore. Perché lui è un vendicativo, disse il commerciante. Contro un cliente tanto fedele non farà niente di sicuro, disse K. Oh sì, disse il commerciante. Quando è irritato non guarda per il sottile, e io d'altra parte non gli sono proprio fedele. Come mai? Chiese K. Vuole che glielo confidi? Chiese il commerciante dubbioso. Direi che può farlo. Ebbene, glielo confiderò in parte, ma anche lei deve rivelarmi un segreto per sostenerci a vicenda di fronte all'avvocato. Lei è molto prudente, disse K. Ma io le dirò un segreto che la rassicurerà del tutto. In che consiste dunque la sua infedeltà verso l'avvocato? Oltre a lui, disse il commerciante, esitando con il tono di chi confessa qualcosa di poco corretto. Oltre a lui ho anche altri avvocati. Non è poi tanto grave, disse K un po' deluso. Qui sì, disse il commerciante, che dopo la sua confessione ancora ansava, anche se con le parole di K aveva acquistato maggior fiducia. Non è consentito, e meno che mai è consentito prendere oltre a un vero avvocato anche altri avvocatucoli. E io ho fatto proprio questo, oltre a lui ho altri 5 avvocatucoli. 5? Esclamò K, colpito soprattutto dal numero. 5 avvocati oltre a questo? Il commerciante annuì. Sto trattando ancora con un sesto. Ma a cosa le servono tanti avvocati? Chiese K. Mi servono tutti, disse il commerciante. Non vuole spiegarmelo? Chiese K. Volentieri, disse il commerciante. Prima di tutto non voglio perdere il mio processo, questo è naturale, quindi non posso trascurare nulla di quello che potrebbe giovarmi. Anche se la speranza di giovamento in un caso determinato è soltanto minima, non posso lasciarla cadere. Perciò tutto quello che possiedo l'ho investito nel processo. Ho ritirato, per esempio, tutto il denaro dalla mia ditta. Prima gli uffici della mia ditta occupavano quasi un piano. Oggi è sufficiente una stanzina interna dove lavoro con un apprendista. Non è stato solo il ritiro del denaro, naturalmente, a provocare questo regresso, ma ancora di più il ritiro della mia capacità lavorativa. Se si vuol fare qualche cosa per il proprio processo, ci si deve occupare solo poco di altro. Lei allora lavora anche di persona in tribunale? Chiese K. Proprio su questo punto mi piacerebbe sapere qualche cosa. Su questo punto posso informarla solo poco, disse il commerciante. In principio, certo anch'io provai, ma smisi subito. È troppo estenuante e di scarso successo. Per non dirle che, almeno per me, lavorare e trattare là dentro è diventata una cosa impossibile. Sedere, aspettare là, sono già una grossa fatica. Lei certo conosce l'aria pesante degli uffici. Come fa a sapere che ci sono stato? Chiese K. Ero nella sala d'aspetto proprio mentre lei passava. Ma che caso! Esclamò K interessatissimo, dimenticando come prima il commerciante gli era sembrato ridicolo. Dunque mi ha visto. Era nella sala d'aspetto mentre passavo. Sì, passai di là una volta. Non fu un caso tanto straordinario, disse il commerciante. Sono là quasi ogni giorno. Probabilmente anch'io dovrò andarci più spesso, disse K. Ma non sarò ricevuto più con gli onori di allora. Si alzavano tutti. Forse pensavano che fossi un giudice. No, disse il commerciante. Allora salutammo l'usciere. Lo sapevamo che lei è un imputato. Notizie del genere si diffondono presto.